Oh, ok, non è ok, voglio stare calmo, ma no, no, no, non spazio qua. No, fake, non ho fake tra gli amici, yeah. A volte mi chiedo, ma tu come fai? Yeah. A volte mi chiedo, ma tu come fai? Hai, come fai? Hey bro, sto preso male, quanto pare, non importa te. Stavo sempre in camera a aspettare che mi vada bene. Ho lasciato stare per non fare finto presa bene. Riuscivo solo a bere. Ma fuck bitch, anzi la bitch, molla la bitch, molla mi please. Non stare qui con me se no finisce male. Hey, ma male, tipo che no, non sta più tra le persone. Posso urlare, ma tanto nessuno mi sente. Yeah. Ma tanto nessuno mi sente. Oh, ok, non è ok, voglio stare calmo, ma no, no, no, non lo faccio qua. No, fake, non ho fake tra gli amici, yeah. A volte mi chiedo, ma tu come fai? Yeah, hey. Yeah, a volte mi chiedo, ma tu come fai? Hi. Come fai?